Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Buongiorno a tutti, buona domenica, ben trovati a questa nuova puntata di Radio Next. Siamo di nuovo insieme, oggi parliamo di un evento che c'è stato qualche settimana fa a Colonia in Germania, si chiama Dimexco. Ed è uno degli eventi più importanti del panorama digitale. Perché ve ne parlo? Perché molto spesso accade che le aziende italiane facciano molta fatica a fare partecipare i propri manager a questo tipo di eventi. Non sono eventi da trascurare, perché all'interno di queste manifestazioni abbiamo l'opportunità di poter ascoltare professionisti di elevatissima caratura. Entriamo più in profondità e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Il Dimexco è uno degli eventi di maggiore importanza e richiamo nel mondo digitale, che si tiene attualmente a Colonia durante il mese di settembre. Durante due giorni serrati di conferenze, workshop, approfondimenti tematici, condotti dai più rilevanti speaker istituzionali e privati, si pone come obiettivo principale di delineare gli scenari di business dell'immediato futuro. È un evento prettamente rivolto al mondo delle imprese e dei professionisti, fortemente focalizzato sul business. Quest'anno ha dato spazio, su 18 differenti sale, ad oltre 570 speaker provenienti da tutto il mondo, che hanno generato oltre 250 ore di contenuti. In aggiunta alla conferenza, un'area espositiva di oltre 1 milione di metri quadri è stata visitata da 40.700 visitatori, che hanno avuto occasione di incontrare oltre 1.100 espositori del comparto digitale, di cui oltre il 50% provenienti dall'estero. Il prossimo appuntamento si terrà il 12 e 13 settembre 2018. Per maggiori informazioni visitate il sito dimexco.com. Numeri davvero impressionanti, direi. E allora ne parliamo con un testimone, con qualcuno che ci è andato, e ci facciamo raccontare che cosa si è portato a casa. Questa mattina abbiamo con noi Marco Loguercio, CEO e founder di Find, che è una società che si occupa di search engine marketing e di performance. Buongiorno Marco. Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi come ospite. Allora Marco, intanto una brevissima introduzione della tua società. Che cosa fate, di che cosa vi occupate? Find è un'agenzia indipendente con base a Milano specializzata in search marketing. Aiutiamo cioè le aziende a cogliere le opportunità rappresentate dalle ricerche di informazioni di prodotti che i consumatori fanno online, nei motori ma non solo. E quando parlo di concretizzare intendo aiutare queste aziende a vendere di più o comunque a generare più business, a conoscere meglio quelle che sono le esigenze e le necessità di propri clienti ma anche di prospect e possibili tali, e non da ultimo conoscere meglio quelle che possono essere le opportunità rappresentate dal mercato in cui operano o da quelli in cui vorrebbero entrare. Senti, tu sei stato a Dimexco ultimamente, ormai si tratta di qualche settimana fa, quindi metà settembre. Ogni anno ormai Dimexco, attorno alla seconda o terza settimana di settembre, Colonia è invasa da circa 40.000 persone. Quali ragioni ti hanno portato ad andare a questo evento? Generalmente sono tre i punti che guardo quando seleziono un evento a cui partecipare, che sono in primis la possibilità di imparare, il secondo quello di trarre ispirazione per il mio lavoro, per la mia attività, e in terzo luogo anche quello di poter incontrare possibili partner, fornitori e fare scouting di nuove tecnologie. Il Dimexco rappresenta appunto un appuntamento ideale per rispecchiare questi tre punti, perché ha un parterre di speaker, soprattutto quelli nel keynote, fatto di persone che sono veramente carismatiche, persone in grado di trasmettere passione, valore, dare spunti actionable, diciamo così, tanto nel breve che nel lungo termine. In secondo luogo, come detto anche nell'approfondimento, un'area espositiva con oltre 1.100 espositori e la possibilità quindi di fare scouting di tecnologie, di nuovi partner. Quindi non è quella fiera alla quale si andava quando avevamo 8-10 anni per andare a vedere i videogiochi o comunque le ultime novità tecnologiche? No, assolutamente, è molto business oriented, infatti questa è una delle ragioni che mi hanno portato a portare anche altre persone della mia azienda. In quanti siete andati? Siamo andati in tre. Vedo la partecipazione a questi eventi proprio come anche un vantaggio competitivo per quelle realtà imprenditoriali che puntano a essere sempre all'avanguardia, a trarre nuovi spunti per evolversi e per comprendere meglio come operare ed essere rilevanti. Ma è stato più un premio per le altre due persone o perché siete andati in tre e non sei andato da solo? Insomma, alla fine voi siete comunque quasi 20 persone, non siete una multinazionale da 50.000 persone, per cui ci si può permettere di andare in tanti a eventi del genere. Era la quinta volta che sono andato al Dimexco e mi sono reso conto dopo i primi anni in cui sono andato da solo che per cogliere al meglio le opportunità offerte da questo evento occorreva andare in più persone, quindi più persone per aiutarmi a presidiare meglio l'evento, ma anche perché rappresenta per loro un'opportunità di confrontarsi anche con realtà straniere, con manager, imprenditori, visto che il provincialismo è forse un grande limite dell'imprenditoria italiana, e il partecipare a questi eventi aiuta queste persone anche a aprire la mente, a guardare oltre confine. Per perfettamente d'accordo, è una delle, purtroppo, delle pecche che ci portiamo dietro, la percezione che questo tipo di eventi sia tendenzialmente una perdita di tempo alla quale partecipare e quindi utilizzarla come un premio aziendale e invece non come un momento dove l'impresa può andare innanzitutto ad imparare, a capire che cosa sta succedendo sul mercato, a capire quali sono gli strumenti che l'impresa può portare all'interno dell'azienda per utilizzare per il proprio business, non per fare business digitale. Ogni volta dobbiamo ficcarci in testa che il digitale è un abilitatore del business delle aziende. C'è qualche speaker che ti ha colpito particolarmente e perché? Per quelli che ho sentito, sicuramente, se devo fare un nome, dico quello di Bob Greenberg, il founder and chief executive officer di RGA, che è un'agenzia digitale presente sul mercato da una quarantina d'anni, ma sempre capace di innovarsi, di reinventarsi in funzione dell'evoluzione del business ed essere sempre rilevanti in tutto quello che fa. Sono gli inventori del Nike Plus, per intenderci, per fare un esempio del loro lavoro. Ecco, abbiamo parlato di qualcuno che aveva avuto una visione talmente futurista che ha generato a Nike, ha aperto a Nike le porte ad un nuovo modello di business, ad una nuova divisione, tant'è che Nike Plus è una cosa staccata dalla produzione delle scarpe, e proprio non è una business unit, è ormai una società a parte che lavora all'interno del mondo Nike, che genera profitti a triple digit, a tripla cifra. Qui Marco, mi tocca chiederti ovviamente l'importanza dei dati, che diventano un abilitatore delle piattaforme di real-time bidding, di programmatic, quindi tutto quello che è il mondo della pubblicità, dell'advertising online, volto a identificare qual è il target corretto e ad erogare solo a quel target il messaggio pubblicitario dell'azienda. Hai trovato qualcosa di veramente interessante, qualcosa di innovativo? Devo dire che è stata una delle tematiche che mi hanno aperto gli occhi, perché se ne sente parlare tanto, ma se ne si sente tutto e il contrario di tutto. Mi sono reso conto che sono tecnologie abilitanti, come dicevi giustamente te, ma ancora in una fase embrionale. Dobbiamo lavorarci molto sopra, soprattutto per renderle actionable e per fare in modo che possano portare veramente valore. Troppo spesso sono ancora utilizzate come una buzzword, giusto per vendere una tecnologia e non come un reale valore che la soluzione possa offrire. Senza divagare troppo, però, Duccio Vitali, che è il CEO di Alchemy, giusto qualche giorno fa, diceva che la creatività senza i dati, senza le informazioni, ovviamente, sta perdendo di enorme importanza. Ora, come facciamo a conciliare questo mondo dei dati, che non è ancora consolidato, con l'incapacità della creatività oggi di essere in grado di parlare al cliente nel momento giusto e veicolando il messaggio corretto? Ci fosse la formula magica, saremmo tutti contenti. Purtroppo devo dire che siamo proprio in quella fase di sperimentazione, che tra l'altro è la cosa più bella del lavoro dell'agenzia, in cui dobbiamo trovare il giusto mix, perché i dati sono chiave, ti aiutano effettivamente a comprendere meglio le persone con cui vuoi parlare, però il solo dato può essere anche fuorviante, perché magari hai un'informazione su una persona che non è attinente o rilevante nel momento in cui la vuoi contattare, o magari la prendi in un momento che non è esattamente quello specifico. Guarda, settimana prossima parleremo con Cosimo Palmisano proprio dei dati e quindi dell'importanza dei dati. Torniamo allora a noi e al Dimexco. Ti faccio ancora qualche domanda per concludere bene questa descrizione. Quanti italiani hai trovato durante questi 2 giorni intensi? Meno rispetto al passato. Negli anni scorsi l'italiano era la terza lingua che sentivo di più, dopo il tedesco ovviamente dei padroni di casa e l'inglese. Quest'anno invece la terza lingua era lo spagnolo, sia di Spagna che America Latina. Di italiani personalmente ne ho incontrati in questi 2 giorni non più di una trentina, calcolando anche quelli che potevano essere sui voli di andata e rientro destinati all'evento, perché poi c'è anche a Francoforte lì vicino, un evento sull'automotive, calcolo di averne incrociati un centinaio. Complessivamente saranno stati un paio di centinaia, che sono una popolazione di 40.000 visitatori. Facciamo come i gamberi, quindi, esatto. No? Cioè, al posto di investire informazione nell'imparare, nel cercare di capire, perché poi l'imprenditore, il manager, si guarda attorno e si chiede cosa sta succedendo, cosa devo fare, come devo intervenire, al posto di imparare, tornano indietro e rinunciano, soprattutto in un momento in cui sta esplodendo il mondo dei dati e sta aumentando guardo la complessità delle informazioni, delle piattaforme, degli strumenti, perché stanno tutti quanti invadendo e pervadendo tutte le funzioni e tutte le attività. Capire diventa quindi un elemento fondamentale. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Quali sono i 2-3 fattori importanti che ti sei portata a casa da questa esperienza per il tuo lavoro? Sicuramente tutta una serie di spunti utili direttamente per il business su cui andare a lavorare sopra e molti elementi di visione su quello che può essere l'evoluzione, perché hai detto giustamente te un attimo fa che è un settore caratterizzato da un'evoluzione frenetica. Cercare di comprendere la strada più adatta da seguire è uno degli elementi di valore della partecipazione a questi eventi. E poi ovviamente non va in secondo piano tutto quello che è un discorso di networking, perché il bello di questi eventi è anche partecipare, parlare, interagire con persone come te, imprenditori, manager, che sono tutti alla ricerca di una via da seguire, quindi il confronto, la possibilità di scambiarsi idee e opinioni assume un ulteriore valore nell'ambito di una trasferta come questa. Anche perché le regole non sono ancora scritte, anzi le stiamo scrivendo adesso e ci stiamo provando quantomeno. E allora, tutto un learning by doing. E allora ringraziamo Marco Loguercio, CEO e founder di Find. Grazie Marco di essere stato qui con noi. Grazie. E per un evento che si è concluso, un nuovo evento alle porte a Milano, ce lo presenta Eleonora Locca, CEO e founder del Mashable Social Media Day Italia. Buongiorno Eleonora e benvenuta. Buongiorno e grazie per avermi invitata. Cos'è Eleonora il Mashable Social Media Day e quando si tiene? Allora, il Mashable Social Media Day è l'evento che celebra la rivoluzione digitale e le dinamiche che questa ha generato sulle nostre vite e sul business. Si parlerà di social media, si parlerà di digital transformation, si parlerà di e-commerce e si parlerà di innovazione a 360 gradi. Si terrà il 19, 20 e 21 ottobre, quindi prestissimo, presso il Talent Garden di Milano Calabiana. In Calabiana, quindi ospitato dal Talent Garden. Perché le persone dovrebbero venire a questo evento? Perché si tratta di un evento di respiro internazionale, un evento che ha contenuti di valore, nel senso che avremo manager di aziende molto importanti che parleranno, come Cisco, come Microsoft, come BNL, come Shopify, come Deliveroo e tante altre. Quindi senz'altro i contenuti sono il punto di forza dell'evento. L'internazionalità, perché abbiamo anche ospiti internazionali o comunque italiani che hanno maturato delle esperienze internazionali proprio come me. Io Eleonora verrò a trovarti sicuramente durante quei giorni e vorrei raccogliere anche qualche voce. Quali sono i numeri attesi? Di quante persone stiamo parlando e di quanti speech? Bene, allora speech ce ne sono oltre 90 divisi su due sale in contemporanea. Ci sono anche dei workshop tematici su Instagram, su Snapchat, sulla metodologia Lego Serious Play e ad oggi registrati 1070 partecipanti, quindi c'è stato un bel numero. Allora saranno 3 giorni veramente intensi, Eleonora. Spero che troverai il tempo di venirci a raccontare una volta che è finito l'evento come è andata e quali sono i contenuti più rilevanti che avrai raccolto, che avrai permesso come dire, attraverso questo evento di divulgare ai partecipanti. Allora io ringrazio Eleonora Rocca, CEO e founder di Mashable Social Media di Italia. Ci vediamo al Talent Garden Calabiana, ormai all'evento alle porte. Ci vuoi ripetere i 3 giorni? 19, 20 e 21 ottobre. Grazie mille. Giovedì, venerdì, sabato. Perfetto, grazie mille. Buona giornata. Ciao. E allora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito sin qui. Ci ascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Next. Per qualsiasi provocazione, idea o suggerimento potete scrivere alla mail radionext@radio24.it. Io sono Pepe Moder e vi auguro una buona giornata.